si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti e buona domenica. Freschi e frizzanti, non tanto, non tanto. Freschissimi, siamo a Expo, quindi ospita Spazio Emilia Romagna. Quindi, cari ascoltatori, se avete in progetto, in procinto di farvi un giro al sito espositivo, il grande sito espositivo, sappiate che ci trovate qua dentro in un bellissimo cubo di vetro di Radio 24. Gabardini firma autografi gratuiti. No, io devo assolutamente ringraziare invece lo stand del Zutti Roll che ci ha fatto fare colazione, perché è molto difficile. Giustamente subito. Expo nutre il pianeta, ma noi ci siamo chiesti stamattina alle 7:30 chi nutre i radiofonici e ci siamo risposti il Zutti Roll, dove io ho mangiato anche un incredibile strudel, quindi sono carichissimo per quello, direi, e bisogna ringraziarlo. Abbiamo bevuto il caffè e anche lo strudel. Altro da segnalare? Niente, cioè. No, per il momento questo direi. Vi aspettiamo, allora, lo ripeto, ascoltatori, qua Spazio Emilia Romagna di Expo, gadget, pacche sulle spalle, grande stima da parte nostra, veniteci a trovare. I contatti 800 24 00 24, naturalmente, per intervenire in diretta, commentiamo le notizie della settimana, cercando come sempre, se possibile, l'unico programma inimitabile che è sempre a caccia di buone notizie. E poi naturalmente c'è anche il gioco. Il gioco, cerchiamo il nostro personaggio della settimana come tutte le domeniche. Come tutte le domeniche, il personaggio di questa settimana è stato, diciamo subito, il primo indizio, protagonista di una grande impresa. Perfetto. Grande impresa. 800 24 00 24, chiamateci, cari ascoltatori. Ma anche detto che è bellissimo vedere Expo la mattina presto, si può dire, sì, perché siamo abituati a vederlo sempre strapieno con le code, invece la mattina che non c'è nessuno, ci sono invece un sacco di persone che lavorano e infatti che sono quelle che hanno in questo momento più difficoltà a fare colazione. Scusa, sì, sono un po' fissato con la colazione stamattina. Perché siamo arrivati, eravamo in deficit, un calo di zuccheri. Esatto. No, per chi lavora qua si può dire una cosa, sicuramente quando finirà questa grande festa dovranno fare dei corsi di riadattamento alla vita normale, perché ci sono persone che stanno qua dentro da 4 mesi praticamente e hanno completamente cambiato il proprio bioritmo. Credono che questo sia il mondo reale. Esatto, parlavamo prima con una barista che diceva ma poi quando finisce Expo io ormai ho questi ritmi, non so mica come andare avanti. Partiamo con il riepilogo della settimana, vai. Allora, come prima notizia, siamo andati a ricercare inizio settimana scorsa le frasi di Rosy Bindi, presidente della commissione antimafia. Sì, signore. Hanno scatenato un putiferio su Napoli e la Camorra, elemento costitutivo della società e della storia di Napoli e la Camorra. Qualcuno ha voluto vedere in questo una accusa, un insulto anche grave ai napoletani, e poi lei invece ha precisato, ha spiegato. Ma ha precisato dibattito, ma mica tanto va detto. È molto importante che sentire l'audio, perché per una volta è bello, perché è l'uso delle parole, nel senso, sì, che nessuno vuole negare la Camorra, ovviamente, perché è importante non negarla, però dire tratto costitutivo effettivamente è un po' forte. È forse erroneo più che sentiamo, forte. Sentiamo. Credo di aver fatto una giusta affermazione nel dire che la storia italiana, come la storia di Napoli, non si può scrivere se non si scrive anche la storia delle mafie e la storia delle camorre. Non accetto la confusione tra la storia, la sociologia e la biologia, come ha fatto un'autorevole testata di questa città che ha titolato La Camorra nel DNA di Napoli. Non ho detto questo, e se avessi detto questo avrei sbagliato. Cari ascoltatori, cosa ne pensate? 800 24 00 24. Adesso sentiamo due reazioni diversissime tra di loro: il sindaco di Napoli De Magistris, che è saltato letteralmente sulla sedia, e invece Roberto Saviano che dice, beh, insomma, quello che dice la Bindi è giusto, condivisibile, non c'è niente di straordinario, io lo dico da anni. Sentiamo De Magistris e Saviano. Io non so quale fosse il pensiero del presidente Bindi, ma quella frase, quando l'ho letta, mi ha fatto saltare dalla sedia. È una frase che non condivido per nulla. La cultura, la storia, il teatro l'umanità. Sono l'elemento costitutivo di Napoli, della regione Campania e del Mezzogiorno. La dichiarazione di Rosy Bindi è in perfetta coerenza con l'analisi che da anni viene fatta del territorio. Forse è stata mal interpretata, qualcuno ha creduto che facesse riferimento al DNA dei meridionali o dei napoletani, cosa aberrante, ma non credo che avesse fatto riferimento a questo. E allora? Quello che va detto è che la Bindi ha cercato di salvarsi mettendoci dentro invece che tirando fuori i napoletani, diciamo, dall'essere camorristi, mettendoci dentro tutta Italia, perché ha detto tutta la storia d'Italia, tutta l'Italia non si può scrivere se non si scrive anche la storia delle mafie, che questo, volendo, è condivisibile, nel senso che la storia delle mafie e la storia d'Italia è effettivamente intrecciata. Ripeto, dire tratto costitutivo è più vicino a DNA che dire storia d'Italia. Nessun si può fare, siamo andati a cercare merito a questa notizia. Invece andiamo avanti con il riepilogo, perché durante la settimana, proprio qua dall'Expo, è arrivata una notizia che potrà essere interessante per gli agricoltori, come no, per i nostri amici che noi li seguiamo. La domenica ce ne sono tanti che passano il tempo a coltivare l'orto, a fare le raccolta delle olive. Ce ne abbiamo di ascoltatori che ci chiamano proprio in diretta dai campi. Ti ricordi quello che bellissimo, con la radiolina che la sintonizzava sull'ulivo, no? Assolutamente, per cercare di sì, che era in mezzo al campo e stava lavorando. Una buona notizia per loro, via lì via l'IRAP agricole. Renzi, vai. Dal 2016 non più la TASI sulla prima casa per tutti coloro i quali hanno la prima casa, chi ha la seconda paga, perché è ovvio che sia, non più l'IMU agricola. E il terzo impegno che prendo, hai ragione sul tema dell'IRAP agricola, e allora il prossimo anno dal 1 gennaio non pagheremo più neanche l'IRAP agricola. Alla caccia, perché oggi, proprio oggi, si inaugura la stagione venatoria, chiaramente. Ci sono naturalmente sì, delle polemiche, è naturale che sia così. L'ente protezione animali dice che non ci sono i piani faunistici, quindi che i cacciatori in sostanza andranno a sparare un po' a quello che capita qua e là, e che quindi la caccia è illegale. Ma noi ci vogliamo chiedere, insomma, al termine di una estate nella quale i cinghiali sono tornati a minacciare esseri umani e addirittura anche a fare delle vittime, siamo proprio sicuri che la caccia sia così nemica della convivenza tra uomo e natura? Ne parliamo con un grandissimo, grandissimo amante della natura, Mauro Corona. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Alpinista, scrittore e amico di Radio 24. Cosa ne pensa, Corona, della caccia oggi, al giorno d'oggi? Io sono stato cacciatore, ma non per hobby come Hemingway che sparava agli elefanti, era come sparare a un grattacielo. Sono stato cacciatore per andare a mangiare, non avevamo i soldi per andare in macelleria a scegliere i filetti, quindi sono stato cacciatore e ora non pratico più, ma non posso parlare male dei cacciatori. Qui sono morti, per non poterli uccidere, di malattia 3500 camosci, e i cinghiali hanno proliferato che devastano campi, perché non c'è una selezione. Allora uno, un animalista, può obiettare, ma muoiono da soli, sì, ma è un peccato che debbano passare anni con queste ecatombi di malattie quando si potrebbe selezionarli. I cervi hanno invaso il territorio, hanno cacciato giù il camo, bisogna prelevare. Il mio amico Rigoni Ster me lo diceva sempre, è un'industria, come una piccola industria, prelevare per tenere, è come un bosco l'animale, se il bosco non lo tagli si soffoca, cresce selvatico, cresce piccolo, rachitico, soffocato. E così i cinghiali lo stesso, al di là del fatto che l'aggressione agli esseri umani da parte dell'orso e del cinghiale avviene solo quando solo in certe situazioni, la femmina ai piccoli, e beh, è chiaro che se uno attraversa la strada alla femmina quando ha i piccoli li difende, l'orsa, la cinghiala, E bisogna però non è che ci sono molti attacchi di orsi nei confronti della popolazione, per giustificare. Ma allora bisogna proibire anche le auto, perché chi quanti vanno sotto sulle strisce pedonali? Questa è demagogia pura. Giusto. La natura è fatta per l'uomo. Peschi dalla natura che tolga, che prelievi quello che gli serve. Perché la natura non esiste se non c'è l'uomo. Il vescovo Berkeley lo disse chiaro. Ma la mela, certo, da sola. L'uomo fa parte della natura. Ma chiaro, scherziamo. Però, non ce l'ho con gli animalisti, ma proteggiamo gli animali, sì, allora proteggiamo le pantegane, i ratti, i vermi, sono anche quelli animali, o no? Sono animali allora anche loro, cioè, però quello che dice, c'è chi li protegge. Quello che dice l'ente protezione animali, Corona, è che non ci sono i piani faunistici, cioè che non praticamente non si sa cosa si va a sparare, non si va più a caccia come andava, lei. Non è vero che non ci sono necessità. I piani di abbattimento, ci sono, e come, non so dove hanno gestito. Io vorrei sentire anche un'altra campana contro di me, ma i piani ci sono quassù, sono severissimi. Adesso facciamo la pausa per il traffico, poi torniamo insieme e le leggo le regioni nelle quali, secondo l'ENPA, non ci sono i piani faunistici, perché secondo loro la caccia è illegale. Tra un attimo, dopo il traffico, 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Carlo Gabardini. In diretta da Spazio Emilia Romagna, dentro Expo. Quindi, cari ascoltatori che ci seguite e che siete intenzionati a farvi un giro al sito espositivo, venite a trovarci assolutamente in compagnia adesso di Mauro Corona, con cui stiamo commentando la riapertura della stagione della caccia. E, secondo gli animalisti e la Lega per l'abolizione della caccia, riaperta naturalmente la polemica, le regioni dove non ci sono i piani faunistici sono almeno il Lazio, la Lombardia e il Veneto, dove mancherebbero appunto i piani in cui si stabilisce chi cosa deve essere cacciato, quando, come e perché. Perché è inutile negarlo, Corona, non è più la caccia oggi come quando andava lei all'inizio, dove dice andavo per necessità, proprio per procurarmi la carne, per il cibo. Oggi non è più così, si va a sparare un po' a casaccio, o no? No, ora io non so se nel Veneto, qui io sono in Friuli, può darsi anche che nel Veneto o in altre qualche regione non ci siano i piani, allora li facciamo. Che ci stanno a fare lì al governo? Fate i piani, fate le regole. Giusto. E infatti quello che dicono loro, dicono finché non ci sono i piani non si può aprire la stagione di caccia. Invece i cacciatori dicono no, oggi si apre la stagione e noi iniziamo a sparare. È come rimandare influenza perché non abbiamo preso il vaccino, cioè capiterà, fate le cose. È possibile che siamo il paese dove si ipotizza ipotesi di lavoro? Fate il lavoro. La caccia non si può negare che perché chi... La gente crede che il cacciatore sia una cosa del DNA, è una cosa che ce l'ha sempre avuta l'uomo, l'essere umano, quando andava con la clava a prendersi il mangiare. Regolamentarla ovviamente, e qui è molto regolamentata, però pretendere di abolire la caccia oppure abolire il palio di Siena, rispetto tu assolutamente, se poi riescono a far abolire la caccia, beh, a me, vittoria per loro. Ma è andare a un controsenso e fare guerra in famiglia. Allora perché se si vogliono proteggere tutti gli animali, proteggiamoli tutti, non quelli. Non ho mai sentito parlare della pesca, pochissimo. C'è una pratica che prendono un pesce con un amo, con un gancio, quindi li fanno male, poi gli tolgono il gancio e lo ributtano in acqua. Ma allora lasciatelo in acqua, è già in acqua. Vabbè, quello però anche io ho sempre pensato che fosse una cosa particolarmente per pescare crudele. E non ammazzare il pesce, però, cioè il fatto che sia nel DNA dell'uomo cacciare mi sembra un po', nel senso che forse anche la poligamia è nel DNA dell'uomo, ciò non toglie che poi a un certo punto si è deciso che no. Cos'è? Ma no, dico il fatto che sia nel DNA, ma perché mica dico che uno perché il DNA dell'assassino bisogna giustificare se ammazza. Bisogna regolamentare e dare possibilità a ognuno. Non può venire uno a dire la caccia si abolisce. Chi ha voglia di andare a caccia? Però è vera una cosa, che tra gli agricoltori, i cacciatori, gli animalisti, gli ambientalisti, fare una graduatoria, Coronel, l'avevo già chiesto anche l'altra volta, aveva dato una risposta interessante. Non è così scontato dire chi è più vicino alla natura tanto da comprenderla meglio e essere più in grado di conviverci con la natura, secondo Corona? Ma guardi che manca l'accesso proprio primordiale dei bambini alla natura. Io l'ho sempre detto di mandare nelle scuole contadini, artigiani, le guide alpine. Non sanno neanche camminare in piccolo sentiero i nostri bambini. E i cacciatori. Ma i cacciatori potrebbero fare delle lezioni, per esempio, ai bambini delle scuole, secondo Corona? Ma io quando ho detto di mandare a scuola i cacciatori, e l'ho scritto anche in un libro, sono stato bombardato da mail, da questi... Nessuno più del cacciatore può insegnare ai bambini a muovere, perché l'alpinista, se gli togli la corda, è perso. Io conosco alpinisti che vanno sul decimo grado, però nel bosco non sanno neanche dove muoversi. Questi vanno in verticale. Ma che cosa dovrebbero insegnare i cacciatori ai bambini? A conoscere gli animali, a sapere muoversi il periodo giusto senza che vengano aggrediti dalle femmine, perché anche la cerva è più sprana. A capire da dove deriva la carne che poi si trovano nel piatto, per esempio, dal supermercato. A trovare l'orientamento, a trovare le fonti d'acqua, a riconoscere le erbe, a riconoscere dove fare un giaciglio, a riconoscere i posti di, se viene una grandinata che ti spacca la schiena, a trovare sempre nel percorso dei piccoli antri, delle caverne, casomai tornare a ripararsi. Il cacciatore è fondamentale nelle scuole. Non a insegnare a uccidere animali, ma a muoversi nel terreno. E quando io ho detto questo, apriti cielo, guardi che io sono stato tacciato di assassino, perché sono andato alla fiera della caccia di Longarone a comprarmi un binocolo e degli scarponi. C'è di tutto alla fiera della caccia, addirittura zaini, occhiali, binocoli. Io sono entrato assassino. Bisogna moderare le parole. I cacciatori diciamo, non godono di buona fama, sono un po' come i tassisti. Sono cittadino e quindi non me ne intendo molto di grandi né altri nelle grotte, però dico, mi sembra che i cacciatori siano odiati. Corona, le voglio fare un'altra domanda. In chiusura abbiamo ancora 2 minuti, perché lei è stato un fumatore, vero? Ha smesso. Sì, ho smesso di fumare, perché cosa c'entra con la caccia? No, niente, non c'entra niente, però siccome questa settimana ci lascia in eredità una nuova campagna antifumo del Ministero della Salute con uno spot di Nino Frassica, sentiamolo. Abbiamo lo spot di Nino Frassica. Ma che sei scemo? Io, tu, ascolta. Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo. Pure tu sei scemo. Ma io non fumo. T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato? Ahi. Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. Non so se l'ha visto in TV questo spot, Corona, ma servono secondo lei questo tipo di divieti contro il fumo, queste campagne? No, non servono. Guardi, io lo so, finché vivo avrò sempre a dire questo. Bisogna educare da bambini, anche alimentarmente. Stiamo raggiungendo gli americani per ragazzini in sovrappeso. Non c'è un'educazione di base né alimentare né di l'albero lo si raddrizza. Dobbiamo però salutarci, Corona. Mi dispiace, avevamo poco tempo. Grazie per essere stato grazie con noi, mille, Mauro Corona. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. In buongiorno, diretta dal sito espositivo da Expo Spazio Emilia Romagna, a fianco alla Ferrari. Abbiamo una Ferrari parcheggiata qua in seconda fila, bellissima, che hanno appena scoperchiato. È arrivato con le proprio doppie frecce. Ma la cosa più bella è che è arrivato proprio un uomo con la tuta, come se fosse un pit stop, e l'ha scoperchiata. 800 24 00 24, vi aspettiamo per commentare le notizie della settimana e anche per giocare con noi al gioco. Il personaggio della settimana che andiamo cercando, abbiamo già dato un primo indizio che è, ha realizzato una impresa questa settimana, e io do un secondo indizio perché domenica siamo tutti generosi, più buoni e generosi. Il secondo indizio è che il nostro personaggio ama festeggiare. Oh, e invece c'è Blue Lake che su Twitter scrive: io e fidanzato a Forlì, colazione con due brioche. Carlo Gabardini e Ale Maurizi, colazione con lo strudel del Sud Tirol. Il mondo è ingiusto. Eh beh, è ingiusto, effettivamente è ingiusto. Ha fatto molta invidia il tuo. Però io in realtà volevo la brioche, poi sono felicissimo di aver mangiato lo strudel, ovviamente, perché mi ha dato molta carica. Adesso andremo avanti con questa trasmissione fino a credo mezzanotte e 40, quando mi sarà scesa l'adrenalina. Prendiamo il filo delle notizie della settimana, vai. Allora, la settimana si è aperta in realtà con una non buona notizia sul fronte della questione, la crisi dei migranti, perché insomma c'era stata tutta una grande attesa per questo piano di ricollocazione dei profughi a livello europeo. Si parlava di 200.000 profughi da ricollocare in Europa, un accordo vicino, anche se c'è l'ostilità, la contrarietà di un piccolo blocco di paesi dell'est, Ungheria, possiamo dirlo tranquillamente. E invece il Consiglio dei Ministri dell'Interno e della Giustizia di lunedì scorso ha trovato un accordo modesto che ha confermato il ricollocamento di soli 40.000 richiedenti asilo. Del resto si riparlerà il prossimo 8 ottobre, non c'è quindi sparito il riferimento al sistema obbligatorio delle quote che era previsto nella bozza con cui si era aperto questo Consiglio europeo. In Italia il dibattito è questo, sentiamo Alfano e Salvini. Il piano di azione sui rimpatri, i soldi per i paesi terzi in modo tale che si possa avviare una cooperazione forte per gli accordi di riammissione, le risorse economiche per i paesi europei per riuscire a finanziare questi rimpatri ed anche la responsabilità politica di un'Europa che dice sono io Europa ad assumermi la responsabilità di rimandare indietro chi arriva illegalmente nel mio territorio, non affido a ciascuno Stato questa responsabilità. Abbiamo messo in crisi il regolamento di Dublino, era un obiettivo strategico e dico anche che dal punto di vista politico la sveglia è suonata e l'hanno sentita pure a Bruxelles. E ieri c'erano migliaia di italiani da Venezia a Milano a piedi nudi. A parte i problemi per l'inquinamento ambientale, ma è il mondo al contrario, il profugo, colui che scappa davvero dalla guerra, è un mio fratello. Beh dai, il profugo è mio fratello, è un altro Salvini, o no? Assolutamente, poi ormai siamo alle battute sui piedi che puzzano, quindi direi che siamo proprio oltre il fondo del barile. No, adesso che la Germania ha detto i siriani sono roba nostra, è da quel momento preciso che la Lega, insomma Salvini, che ha credo ereditato da Bossi un discreto fiuto, diciamo, politico, si è un po' ricollocata, adesso i profughi sono suoi fratelli. Sono una risorsa, vabbè, anche perché sono quasi tutti laureati siriani, quindi... Allora, prenderei anch'io. Riprendiamo con gli ascoltatori prima di andare sulla pausa del traffico e andiamo con Luigi che ci chiama da Reggio Calabria. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Io sì, volevo dire qualcosa sul DNA della Bindi. Prego, della Bindi. Ha delle notizie fresche? È il suo medico? No. Il punto è, lei parla della storia d'Italia. Se avesse... Sì. Letto la storia d'Italia, saprebbe che dopo la formazione dell'Italia, dopo che il regno delle due Sicilie è stato abbattuto da Garibaldi, la presa larga. Il regno delle due Sicilie. Non c'era prima nel DNA dei meridionali questa voglia di delinquere e di fare. È nato dopo che sono arrivati i Savoia, che hanno praticamente sottomesso il sud, hanno portato via tutte le fabbriche, hanno portato via tutto il lavoro. A quel punto, però, vede Luigi, dipende dal quadro temporale che uno tiene a mente. No, è che in realtà lei in realtà sta avvallando quello che dice la Bindi, perché lei dice da quando inizia la storia d'Italia inizia anche la storia delle mafie, che è la stessa cosa che sta dicendo lei, o ho capito male? È una questione di RNA, e noi abbiamo due acidi nucleici, il DNA e l'RNA. L'RNA è quello messaggero che porta il messaggio. Però, sono le 9 di domenica. Ricordiamo comunque che la Bindi non ha mai detto DNA, e quindi ha se ci mettiamo a parlare del DNA siamo su un'altra cosa, secondo me. Comunque, Luigi, grazie per averci chiamato. Diamo spazio anche a Marcello da Udine. Marcello, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Dunque, io intervengo per il medesimo argomento. Sì. Io vivo nel profondo nord praticamente quasi da 50 anni, da quando sono nato. E quando penso alla mafia, ho come riferimento chi di mafia si intende. Borsellino, Falcone, Leonardo, certo. Ciascia. Se certo. Io analizzo il pensiero di queste tre autorevoli persone, che di sicuro si intendevano di mafia più di giornalisti e politici, io capisco che la mafia, come spiegava bene Borsellino, non è un fattore che si studia e si capisce analizzando il comportamento dei capi mafia, dei capi mandamento, dei boss e dell'eccetto. Si capisce la mafia quando si capisce i meccanismi che regolano una società. Come si pone un cittadino di fronte alle istituzioni e allo Stato? Ecco, analizzando questo fenomeno, io posso tranquillamente dire che nella società meridionale, ma possiamo dire anche nella società italiana, sì, praticamente il comportamento malsano che si è venuto a creare soprattutto negli ultimi decenni tra i cittadini e le istituzioni è un qualcosa che possiamo tranquillamente definire come un elemento fondante della società. Quindi per me ha detto una grande verità. Però lei sta parlando di rapporto fra cittadini e Stato. Il rapporto fra cittadini e Stato non è esattamente la camorra. No, ma se io non ho come riferimento lo Stato, ma ho riferimento per risolvere un mio problema con un mio vicino, invece di rivolgermi alle istituzioni e allo Stato, mi rivolgo al capo mafia. Mandamento. Questo dà vita alla mafia. Questo è il meccanismo che fa partire lo Stato. Sì, però non credo che sia un problema solo dei napoletani. Marcello, no. Grazie, dobbiamo andare sul traffico. Però c'è una notizia, ve la voglio dare, perché hai visto che in Sicilia cosa è successo? Hanno appeso un manifesto con la foto di un bambino. Questa meravigliosa creatura è Cosa Nostra, sì, ed era il figlio di un pregiudicato. E il manifesto naturalmente è stato subito tolto. Questo a proposito... Beh, è perfetto, perché parliamo di mafia, tu parli di Sicilia, ma giustamente il problema è il traffico. Traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo ben ritrovati da noi, Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, che si trovano in quel dello spazio Emilia Romagna di Expo. Abbiamo Lucia che ci chiama da Alessandria, prima di parlare del primo giorno di scuola. Te lo ricordi ormai? La voglia se me lo ricordo. Sì, È stato l'anno scorso. Tra poco ne parliamo. Prima Lucia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, è un piacere buongiorno. Immenso parlare con voi e in particolare con Gabardini, che è la mia passione, è una persona che adoro, meraviglioso. Devo dirlo, prima di la tutto. Ringrazio moltissimo, adesso mi emoziono tantissimo, sono anche in una gabbia di vetro con il pubblico fuori, quindi adesso mi emoziono e piangerò. Lucia, Alessandria a Milano sono 2 ore di macchina, venga a trovarci. Ci dica. Niente, volevo dire questo, io sono un amante della natura, vado spessissimo a passeggio, fino ad ora sono andata tranquilla. Mi capita a volte, quando aprono la caccia, di sentire gli spari vicinissimi. Un giorno ero a Castagne, passa un cacciatore col fucile e mi dice: signora, stia attenta. Io ho detto: veramente deve stare attento lei che ha il fucile, io non ce l'ho. Gli animali si sentono da distantissimo, infatti io sento grugnire i cinghiali, ma come io mi sposto loro si spostano, quindi bisogna proprio cioè voglio dire, però quest'estate qualcuno ha avuto un incontro, incontri meno felici col cinghiale rispetto a quello che è accaduto. Ci vorrà il prelievo, io sono vegetariana, per carità, a me non tocca il fatto non è interessata giustamente alla questione, ma ci chiedevamo, siccome abbiamo sia Alessio sia io tutta l'estate sentito di persone che dicevano ma comunque i cinghiali sono pericolosi, stanno devastando alcune culture, quindi come facciamo a reagire? Questo. Il fatto è che è ridotto il loro spazio vitale, quindi scendono dove trovano il cibo, è ovvio, va bene, il prelievo ci andrà, io non sono fanatica, io certo. Penso a me, cioè come si può dire, penso a me, ognuno deve andare contro la propria coscienza, ecco, volevo dire questo. Perfetto, grazie per essere stata con noi, buona grazie domenica, mille buona Lucia di tutte le cose che ci ha detto. Ridiamo l'indizio sul personaggio della settimana, va? Sì signori, allora l'indizio che abbiamo dato è che ha fatto una grande impresa e il secondo è che gli piace festeggiare. Oggi è dura, 800 24 00 24. È molto bello vedere Expo che si sta animando piano piano. Abbiamo avuto la fortuna di essere qui fin dalle 7. Possiamo dire la fortuna? Ma sì, diciamo. Questa grandissima fortuna di essere qui fin dalle 7 di domenica mattina. E adesso lentamente si sta riempendo, iniziano già le code. Allora, primo giorno di scuola questa settimana, la buona scuola, sapete, la stabilizzazione dei precari, però insomma il ministro Giannini andando in giro per le feste dell'unità si è beccata pure qualche contestazione, pur stando diciamo nel suo territorio, il territorio amico della maggioranza e del governo. Sentiamo il ministro Giannini, poi Salvini. Forse tutte queste persone dovrebbero interrogarsi sul perché si è creata questa situazione, sul perché abbiamo una stratificazione di centinaia di migliaia di persone che hanno avuto l'illusione di poter essere assunte senza poi arrivare mai alla certezza di poterlo fare. Noi abbiamo scelto la strada più difficile, ma anche quella che nell'arco di un anno darà una soluzione definitiva non solo a quelli che hanno accettato, ma anche a tutti coloro che giovani entrano adesso nel mondo della scuola e possono affacciarsi con una sicurezza in più, che è il ripristino della Costituzione e il concorso che partirà, come dice la legge, entro il 1° di dicembre. Andare fuori con uno stipendio basso, pagare le spese, l'ho provato anch'io, io ero in un altro settore, quello dell'università, ma posso garantire che nel 90-91 si possono vedere i numeri, lo stipendio da ricercatore o da professore associato non era uno stipendio faraonico. Domani ricomincia la buona scuola, facciamo una scommessa? Che grazie a questa buona scuola, che facendo una citazione dotta da Fantozzi è una cagata pazzesca, scommettiamo che domani ci saranno migliaia di cattedre vuote? Il cortile affollato e mi scappa la pupù, sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B. Primo giorno di scuola, allora ne parliamo con un insegnante che questa settimana però ha superato lui stesso una prova a pieni voti, addirittura ha vinto il premio Campiello. Diamo il buongiorno a Marco Balzano. Balzano. Chiediamo per scusa, quello che ho avuto l'incertezza, perché lo sapevo che avrei sbagliato. Primo errore con la penna rossa da correggere. Esatto, iniziamo malissimo così, il primo giorno di scuola sbagliando il nome del prof. Le chiediamo scusa. Allora, prego. Vediamo se recuperiamo. Vincitore del Campiello con il libro L'ultimo arrivato, Sellerio editore. Un libro che è la storia di un bambino emigrato dal sud al nord nel recente passato d'Italia, è così? Che storia è? Sì, è vero, è la storia di un bambino emigrante, di come tanti ancora ce ne sono stati in Italia all'inizio degli anni 60, che dal sud, ma non solo dal sud, si trasferivano per miseria nelle città del triangolo industriale e qui faticosamente, ma anche tra mille avventure, tra l'ironico, il malinconico, la disperazione, il coraggio, arrivavano facendo mille lavoretti a 15 anni, età in cui riuscivano a entrare in fabbrica e quindi a lasciarsi più definitivamente veramente la miseria alle spalle. La storia di uno di questi bimbi, e io ho raccolto le testimonianze da persone che hanno vissuto l'esperienza dell'emigrazione minorile, e la storia inizia nel passato ma finisce tremendamente nel presente, cioè nel senso molto nel presente, dove a esserci come ultimi arrivati non sono più solo i terroni ma sono i nuovi ultimi arrivati. Perché di oggi il protagonista è cresciuto e si trova, diciamo, ad affrontare questa nuova ondata migratoria? Sì, insomma, ne assiste come la stiamo assistendo noi, e quindi lui, pur avendo una formazione, diciamo così, molto semplice, non avendo tutti gli strumenti culturali per decifrare, entrare in contatto col diverso, inevitabilmente, soprattutto vivendo alle periferie di Milano, ci si incontra e ci si scontra. Ma è vero che quando parliamo di emigrazione al passato siamo disposti forse a concedere un alone di magia, di romanticismo, di di romanticismo, di mitizzazione anche positiva, quando se ne parla invece nel presente non è così? E cos'è cambiato? Innanzitutto mi pare che sia assolutamente vero. Cos'è cambiato? È cambiato che cosa non è cambiato? È cambiato che l'uomo rimane un individuo che impara poco dalla storia e sostanzialmente machiavellicamente tarato su se stesso, e quindi una volta uscito lui dalla miseria fa fatica a rispecchiarsi nelle nuove miserie. Non si impara più di tanto, forse. Da questo punto di vista mi pare che sentivo parlare di scuola, che l'unica salvezza non possa che continuare a essere, per non cedere alle paure più antropologiche, più becere verso l'altro, quella di avere strumenti culturali per decifrarlo, per trasformare l'ignoto, il diverso, in ricchezza. Non si impara, ma bisogna studiare. Assolutamente. Com'è andato l'inizio della scuola a Milano? Dove insegna Balzano? Personalmente o in generale? Personalmente è andato bene, nel senso che io ho sempre fatto l'insegnante da quando ho smesso di andare a scuola, quindi sostanzialmente non ho mai smesso, e quindi bene, positivo, piacevole, e sempre io. Però poi sono cambiate. Ero sono particolarmente cambiate delle perché cose, avevo i campi in tasca. Sono cambiate delle giusto, cose. Giusto, giusto. Sì, no, dico, sono cambiate anche per lei, da quello che ho capito, nel senso che prima insegnava al liceo, adesso invece no, è giusto? Sì, adesso mi hanno i pastrocchi per fare tutto in fretta. La riforma Renzi ha fatto anche di questi errori, nel senso che ha caricato la buona di lavoro. Scuola? Sì, la buona scuola, certo. Ha caricato le piace questa addizione buona scuola, questo nome buona scuola? È molto ironico. Se voleva essere ironico, mi pare che abbia centrato l'obiettivo a pieno. È ironico in quanto ossimoro, professore? In quanto ossimorico, sì. Ma cos'è successo? È rimasto vittima della traslazione delle cattedre? Io come tanti altri, questi sono gli errori, se volete, questi sono i pasticci più che... Però questo è sempre accaduto, possiamo dirlo? Le cose ideologicamente sbagliate. Certo che è accaduto, io ho insegnato per 11 anni al liceo da precario, vivendo con 9-10 stipendi al mese e non stipendi d'oro, e a differenza di quello che diceva Giannini... Sì, scusi, certo, ovviamente. Ah, no, ma infatti ero molto 9-10 stipendi, o sono veramente minuscoli questi stipendi, oppure... No, 9-10 stipendi all'anno, sì, mi correggo. Perfetto. Assolutamente. Eh no, è che correggere il nostro professore il primo giorno di scuola è un po' imperdibile, le chiediamo scusa. Ha ragione, e quindi a differenza di quello che sentivo dire al ministro, la differenza anche nel 90 tra uno stipendio da prof associato e uno stipendio di maestro elementare o di scuola superiore era comunque molto consistente. Detto questo, no, io sono stato vittima di un pasticcio sostanzialmente, perché per fare tutto in fretta e mettere questo cartello, questo timbro politico, in realtà non su un progetto politico ma su una sentenza doverosa della Corte Europea, qual era l'assunzione dei precari, hanno caricato di lavoro i provveditorati giorno e notte anche a Ferragosto, e quindi molti che potevano insegnare al liceo li hanno mandati alle medie, molti alle medie l'hanno mandati in altra parte, e questo non sembra, ma non è un essere ciusi, come direbbe la Fornero, perché non insegni più al liceo, chiaro. Però è molto evidente che insegnare a un bambino di 11 anni, insegnare a un ragazzo di 20 anni implica delle capacità pedagogiche, didattiche, un po' diverse. Estremamente certo. Diverse, perché ci sono esigenze diverse nella loro fase della vita. Ma è vero che c'è stato anche un problema... Grandi, eh? anche un problema con l'insegnamento, il sostegno ai bambini con problemi, ai bambini disabili, perché per esempio in Lombardia, lei insegna a Milano, si è detto questo, si sono persi diversi insegnanti di sostegno. Certo, abbiamo iniziato la scuola, le chiedevo se personalmente o generalmente, perché io personalmente ero in classe, ma mancavano 2 insegnanti su 10, molti di sostegno, alle medie poi, che è scuola dell'obbligo, e i ragazzi di casi che necessitano del sostegno sono evidentemente molti di più, e quindi si assistono a delle situazioni in cui ci sono magari degli handicap gravi a cui deve far fronte il professore. Insomma, non perché è successo che nella stabilizzazione dei precari sono state assunte sì delle persone, magari però non erano qualificate per fare il sostegno, quindi adesso le scuole si trovano con gli organici formalmente più completi di prima, ma non hanno gli insegnanti di sostegno che invece sono necessari per quei casi che assolutamente guardate, in subito. Italia il problema del sostegno è una delle cose più gravi al mondo, generalmente cioè la scuola si regge perché ci sono persone di grande preparazione, di ottima buona volontà, che nonostante tutto il mattino si alzano e vanno in classe e fanno quello che possono, però guardate che per il sostegno molte volte i prof di sostegno sono prof che non riescono a insegnare sulla loro materia di indirizzo. Capita molto spesso che io ho incontrato tantissimi prof di sostegno che avrebbero voluto insegnare filosofia, storia dell'arte, materie per cui ci sono poche cattedre, e come abilitazione aggiuntiva si sono presi il sostegno per lavorare. Poi lo fanno doverosamente, ma voi capite che per un alunno in difficoltà serve una preparazione enorme, qualcosa e specifica. Di molto specifica, se no sì, chi soffre due volte per aver avuto un figlio in difficoltà e per vederlo magari aiutato da una persona non competente come sarebbe giusto. Questo è un grave problema. Lo penso anch'io. Possiamo dire una cosa di buono sulla buona scuola, è che non fa preferenze, perché se nemmeno il premio Campiello, diciamo, che prima insegnava al liceo, adesso non insegna al liceo, diciamo, non sono state fatte preferenze. Guardi, di un'imparzialità veramente eccellente da questo punto di vista. Grazie per essere stato con noi, Marco Balzano. Grazie. E complimenti per il Campiello. Io che invece sulla buona scuola ho dato un 6, diciamo, sulla fiducia al governo Renzi, su questa questione qua dell'insegnamento di sostegno. Dai, un 4. Non si tocca, un 4, ma anche meno. Bisogna assolutamente fare qualcosa, metterci mano. 800 24 00 24. Me lo fate fare un ascoltatore prima della pausa, velocissimo? Giuseppe da Napoli. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci dica tutto. Forte e chiaro. Dunque, prego, Giuseppe. Il personaggio dovrebbe essere, almeno secondo me, la tennista Pennette che ha vinto gli US Open d'America. Beh, la notizia c'è, è precisissima, anche se in realtà è di settimana scorsa. Ma tecnicamente sarebbe di settimana scorsa, però insomma, ci stava tutta. Ma non è il personaggio che avevamo scelto. Però grazie mille, anche Giuseppe, perché ha fatto un'impresa incredibile, sì, la Pennette. Sì. Beh, adesso lo aggiungiamo, un altro indizio, perché siamo quasi, mancano 20 minuti, e aggiungiamo che il nostro personaggio, protagonista di una grande impresa di questa settimana, giocava da mediano, così. Sta abbastanza forte, eh? 800 24 00 24. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta dal sito espositivo. Si è creata davanti ai nostri occhi, Carlo, una coda come pazzesca, definire? Mostruosa. Direi che sono già 1500 infernale persone, anche. Però si muove. Sono tutti qua, ma dove stanno andando? È emozionante, anche perché pensavo... È emozionante? Sì, beh, è una coda pazzesca, sono le 9:30 del mattino di domenica, è tutta coda per il Palazzo Italia, è una coda emozionante, anche perché pensavo che fossero qua per noi. Ho detto, però Alessio, sta andando benino, la nuova stagione di Si può fare. Dobbiamo ricordare i nostri contatti social, ci potete contattare, anche perché cerchiamo sempre di Si può fare in musica. Ci potete contattare sui nostri account di Facebook, che è Si può fare trattino Radio 24, oppure sull'account di Twitter, che è chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini, e c'ho anche il mio, che è chiocciola Ale Maurizi. Quello che vi andiamo a raccontare adesso invece è un Si può fare a metà, o sembrava che si potesse fare, una storia di scuola e di scuolabus. Vai. Abbiamo appena annunciato, la faremo tra poco. L'ospite adesso non ci risponde al telefono. La storia dello scuolabus di San Pellegrino in provincia di Bergamo, che non si può fare, ve la racconteremo tra poco. Invece, visto che siamo proprio oggi, lo ridiciamo, Spazio Emilia Romagna Expo, sì, c'è una storia che dimostra un bel si può fare, l'unione che fa la forza, ed è il consorzio Orgoglio Brescia che ha realizzato niente po' di meno che il simbolo di Expo, le imprese del legno bresciane riunite per non il logo, per fare l'albero della vita. Paolo Franceschetti, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccoci anche qua. ho appena twittato sul mio Instagram l'albero della vita di giorno. Presidente del consorzio Orgoglio Brescia. Certo, no, lo so che siamo milioni. Ci racconti questa storia, simbolo di Expo, simbolo dello spirito soprattutto della imprenditoria italiana e bresciana. Assolutamente, no, ha fatto bene dire italiana, perché effettivamente noi rappresentiamo una piccolissima parte dell'imprenditoria italiana, che è meravigliosa, e questo è ormai sotto gli occhi di tutti. Più che storia, è veramente è stata un'avventura questa nostra diciamo così condivisione con queste meravigliose 19 aziende bresciane, tutte facendo parte dell'associazione industriale bresciana, sì, che fa parte di Confindustria. Abbiamo deciso di sfidare, non dico l'impossibile, ma quasi, che è quello di consegnare l'opera in 4 mesi. Il 23 di dicembre abbiamo firmato il contratto con Expo, il 5 gennaio eravamo in cantiere e il 20 aprile abbiamo consegnato l'opera, così come la vedete. È vero che 19 imprese, che però normalmente prima di questo evento erano imprese concorrenti tra di loro, e non dico che si guardassero in cagnesco l'una con l'altra, ma insomma normalmente concorrenti, quindi diciamo non abituate necessariamente ad essere così a condividere il esatto. progetto. Guardi, è stata la sfida più importante, però è prevalso non l'egoismo, ma è prevalsa veramente l'altruismo. E questo è un evento, perché iniziare a ragionare con aziende che magari fanno lo stesso prodotto, ma con logiche diverse, impostazioni diverse, è stato difficilissimo, non pensi che sia stata una cosa semplice, però è stata veramente una Franceschetti, cosa. Ma l'albero della vita tecnologicamente è anche, adesso io non me ne intendo, ma significativo, perché poi è il luogo nel quale avvengono tutti gli eventi qua all'Expo, è un luogo cioè l'albero stesso, che ha una struttura, ce la descriva, in legno, però all'interno c'è un'anima tecnologica. Sì, tecnologica, diciamo che la tecnologia è un po' tutto, il legno e anche l'acciaio, che è di fatto il tronco portante dell'albero stesso, perché sono dei tubi d'acciaio di diametro 2,5 metri, con spessore che vanno dai 30 mm in su. Ma dove andrà a finire l'albero della vita? Ma guardi, c'è tanta gente che se lo può portare nel giardino in casa sua, di che la propria. Beh, insomma, quindi questo non lo so. Ma e quindi sì, dove andrà a finire? È la grande domanda. Quello ma che guardi, possiamo chiedergli io, per non metterlo in imbarazzo, è quale e cosa preferisce. No, forse guardi, quello, io le dico quello come che io mi auguro. Sì. Mi auguro che rimanga lì. Mi auguro che tutta l'area di Expo, che è in questo momento l'area tecnologicamente più avanzata d'Europa, diventi il campus universitario e l'albero diventi. E quindi che non venga icona smantellato, insomma, e che l'albero resti soprattutto. Perché si è detto, qualcuno dice potrebbe andare a dirigere il traffico dalla rotonda di Piazzale Loreto, Piazzale Loreto a Milano. Un'ipotesi un po' inquietante, devo dire personalmente. Non so cosa pensa la metropolitana di Milano, perché effettivamente l'albero pesa quasi 400 tonnellate e il peso è un po' eccessivo. Quindi, tocca chiudere la fermata di Loreto poi, perché sotto ci sono due metropolitane, sia la rossa sia la verde. Però mi sembra bellissimo raccontare, cioè mi sembra quasi più vitale il raccontare come sia stato costruito, cioè di avere tantissime aziende concorrenti che decidono per una volta di mettersi tutti insieme, di non guardare al profitto, diciamo, e dire dobbiamo costruire questa cosa in tempo, anche se è il 5 gennaio, noi entro aprile ve lo consegniamo e così avete fatto, giusto? Esatto, le dirò di più, siccome il consorzio Voglio Brescia ha come oggetto sociale solo esclusivamente l'opera dell'albero, però stiamo ragionando al nostro interno di poter continuare a fornire i nostri servizi, a tal punto che stiamo valutando l'opportunità di andare a presentare il nostro consorzio anche in paesi diciamo dove richiedono una tecnologia costruttiva all'avanguardia. Quindi, di rimanere uniti come consorzio. Ma questo sarebbe una vera vittoria di Expo. Un vero si può fare. Questo sarebbe una roba che dopo Expo resta e non che dopo Expo riniziate a litigare uno con l'altro. Fatecelo quindi sapere, perché noi ne parliamo molto volentieri in trasmissione. Si può fare. Mi portiamo così in palmo di mano. Senta, però io glielo devo chiedere, ma è vero che l'avete copiato quest'albero? Perché all'inizio si era detto che quest'albero c'era già un modello da qualche altra parte, che non è un'idea originale. Allora, tenga presente che noi comunque abbiamo dato realtà a un progetto, che è il progetto dello studio BWS Balic. Sì, c'è stato questa, diciamo così, distanza tra, sono uguali agli alberi di Singapore e quant'altro. L'architetto che ha progettato e costruito gli alberi di Singapore ha mandato una lettera dove effettivamente diceva no, non è uguale assolutamente Gli alberi lui, gruppo, allora, gruppo con la vostra costruzione. Quindi Balic assolutamente non ha copiato nulla. Bene. Beh, poi insomma l'idea dell'albero, cioè l'idea è un po' di tempo che è un po' di tempo, diciamo. Potrebbe anche dire è mia l'idea di Adamo e Eva. Grazie Paolo Franceschetti, presidente del consorzio Orgoglio Brescia. Grazie mille, buona domenica. L'albero della vita, questa grazie era la voi, storia, non si può fare, ve l'abbiamo voluta raccontare. Sì, certo, abbiamo un po' di ascoltatori da sentire. Li facciamo dopo il traffico, che dite? Sì, poi torniamo 800 24 00 24. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo in diretta con Si può fare. Noi dal sito espositivo Spazio Emilia Romagna siamo dentro Expo e la coda si è allungata. Non vediamo la fine noi, quindi direi che sarà un'ottima giornata di Expo. Noi regaliamo dei gadget qua allo spazio di Radio 24, però non si è creata la coda. È per forse dentro il Padiglione Italia stanno regalando lingotti d'oro. Non dirlo ad alta voce, perché qua fuori ci sentono, tutta la coda ci sente. Infatti ogni tanto si vedono dei drappelli che si staccano dalla coda per venire al nostro stand per avere il cappellino di Radio 24, perché sono sotto il sole. Esatto. Volevo solo ricordare che c'è ancora il Milano Film Festival a Milano, oggi ultima giornata di Milano Film Festival, è il ventennale, la ventesima edizione, ci sarà la premiazione oggi alle 19, dove in realtà festeggiamo anche il ventennale di Esterni, essendo io uno dei fondatori, diciamo, però l'ho fondata un anno, quindi posso continuare a dire che ho 21 anni. Complimenti. Andiamo con un paio di ascoltatori. Annalisa, che ci chiama da Roma, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, io volevo partecipare al quiz. Secondo me il personaggio è Alessandro Florenzi, gol che ha fatto col Barcellona. Alessandro, il calciatore che ha fatto un gol straordinario da 60 metri. Pazzesco. Ha realizzato una grande impresa. L'impresa c'è, ama festeggiare dopo ama quel gol sicuramente, sicuramente sì. Lui è un burlone, Florenzi, perché è uno che sta sempre al gioco e sicuramente poteva essere lui il personaggio. È assolutamente sì, ma invece quasi era e invece è assolutamente invece no. Non purtroppo non è lui il personaggio. Grazie mille per aver chiamato e buona domenica. Grazie Annalisa. Andiamo con un altro ascoltatore, Glavis da Modena. Sì. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Un saluto a tutti. Per grazie. Me, anche io partecipo per il quiz, per me il personaggio è Ligabue. Perché? Ligabue è il cantante. Sì, sì, no, sì, ma perché? Sì, ci chiedevamo perché, quale fosse la notizia legata a Ligabue. Allora, quando avete detto giocava da mediano, veramente mi è venuto l'idea subito, che potesse essere lui. Certo. Poi ha fatto questo spettacolo che è riuscito a unire diverse generazioni, insomma, ultimamente, in questi giorni, quindi niente, ho pensato subito a lui come possibilità. Ha pensato bene. Brava. Luciano Ligabue ama festeggiare. Bravissima. Per questo motivo, perché da poco aveva anche fatto il compleanno, ma adesso ha festeggiato i 25 anni di carriera con un enorme concerto che è il maggior incasso di un della concerto della storia, credo, dei concerti in Italia. Pazzesco. Questa è la notizia. Grazie. Quindi questa grazie. È la notizia. Lei ha vinto, complimenti, buona domenica. Vince il catalogo del MUDEC, il Museo delle Culture qua di Milano, o la miniguida di Expo. Adesso vedremo cosa sarà disponibile. Sempre editi da 24 ore cultura, ricordiamolo. Quindi complimenti Glavis, grazie per essere stata con noi. Adesso ce l'abbiamo l'ospite? Ce l'abbiamo? Allora lo salutiamo. Massimo Possenti, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Presidente Buongiorno. Dell'associazione genitori di San Pellegrino, siamo in provincia di Bergamo, dell'istituto alberghiero di San Pellegrino, protagonista di una storia che abbiamo definito un si può fare a metà, perché sarebbe bello che si potesse fare, sarebbe bello chiamarla. Che si potesse fare. Succede che insomma voi volevate mettere su un servizio, sapete, la mattina si prende l'autobus per andare a scuola, autobus strapieni, in quell'orario lì un caos infernale. Se hai la fortuna che lo scuolabus o l'autobus passi vicino casa, allora voi avete detto lo mettiamo su noi un servizio privato alternativo di trasporto a scuola a spese nostre, però vi siete scontrati contro una parola incredibile, il monopolio. Sì, è vero? Ci siamo scontrati, è una parola grossa, nel senso che la provincia ci ha segnalato, la provincia di Bergamo ci ha segnalato che secondo loro parrebbe configurarsi un servizio pubblico e di conseguenza va regolamentato e normato sulle basi di una legge regionale e va autorizzato da parte della provincia. Sì. Noi la nostra e quindi caso, non ve l'hanno fatto e fare, quindi però. Non lo potete fare? No, non è corretta l'informazione. Ah. C'è stato un esposto di una ditta concorrente contro la ditta che noi abbiamo scelto per effettuare questo tipo di servizio. La provincia, quello che dice la provincia è questa normativa, non lo potete fare perché andate a sovrapporvi alle fermate. Ma scusi, posso sentire? L'autobus sta circolando, il vostro autobus sta funzionando? Il nostro autobus partirà settimana prossima. Ah, quindi voi siete perché fiduciosi comunque, di poterlo fare nonostante gli esposti? Ovviamente sì, perché si tratta di un noleggio con conducente, non si tratta di una creazione di un servizio pubblico. Cioè noi come privati cittadini, non soddisfatti e con le varie problematiche che abbiamo affrontato in questi anni, con i trasporti sempre più scarsi, ci siamo avete deciso di auto-organizzarvi e organizzare un trasporto. Però la cosa incredibile è che ci sia stato questo esposto, che sia arrivata a questa posizione sostenuta comunque dal comune, perché insomma tutto sommato voi davate una mano anche a quelli dalla che prendevano l'auto dal comune, dalla provincia, mi scusi, provincia. Quindi da un ente pubblico, però perché tutto sommato voi davate una mano anche a quegli altri che prendevano l'autobus, diciamo snellivate un po' la corsa. E invece Vede, il discorso sta si può definire in poche parole. San Pellegrino ha un numero di studenti che si avvicina ai 1150 studenti. La problematica maggiore si ha all'uscita della scuola. Alla mattina non è così, diciamo, pesante la situazione, anche se prima sono sempre auto insufficienti. all'uscita della scuola mi escono circa 800 ragazzi, di questi 800 ragazzi, questo alla prima ora, all'1 un quarto. Di questi 800 ragazzi. Senti, però noi non abbiamo più tempo, mi dispiace, sì, per continuare a raccontare questa storia, quindi noi la ringraziamo per essere stato con noi. Volevamo rendere conto di questo si può fare a metà, perché ci sembrava comunque una cosa da sostenere, un gruppo di famiglie che si auto-organizzano per fare una cosa utile, sì, come un però, servizio di trasporto autobus, e che invece hanno trovato qualche difficoltà proprio dall'ente però pubblico. Però forse meno, e quindi, insomma, forse meno di quello che pensavamo. Ha detto che la parola scontro, la parola troppo grossa, in effetti parlando di autobus, di pullman è meglio non parlare di scontro. Adesso siamo in chiusura, lanciamo rapidissimamente i titoli del domenicale, non so se poi avremo il tempo per salutarci, tra pochissimo. Questa domenica apriamo il supplemento culturale con un libro sul ritorno a Confucio di Maurizio Scalfari, un libro in uscita in questi giorni, e ne parla il nostro esperto di Cina, Giancarlo Calza. È una riflessione molto attuale, molto importante sulla cultura di oggi in Cina, e appunto sul ritorno a Confucio. Dopo che Mao lo aveva allontanato dalle abitudini dei cinesi, adesso c'è un grande ritorno. Basta guardare l'immagine di copertina per capire che si ritorna proprio ai valori importanti della Cina tradizionale. Naturalmente tutto assolutamente modernizzato e tutto in una sorta di forma di soft power attraverso il quale la Cina sta diventando sempre di più la dominatrice del mondo. E questa è una riflessione importante che io vorrei abbinare però ad un gioco che è molto serio in realtà, che lanciamo questa domenica. E Paro Libere è l'hashtag che vi invitiamo ad usare sul indirizzo Twitter 24 domenica, e vogliamo proprio invitarvi a citare dei letterati, così come avevamo fatto domenica scorsa con Mario Vargas Llosa, il premio Nobel, che appunto non solo è un grande letterato, non solo è un grande creatore di romanzi, di storie meravigliose, sempre peraltro molto realistiche, ma è anche un paladino della libertà, delle libertà economiche, delle libertà politiche. E allora con questo nostro hashtag Paro Libere noi invitiamo tutti i nostri lettori, mandateci voi i vostri esempi di come grandi creatori di letteratura o anche artisti abbiano difeso tutte le libertà, libertà economica, libertà politica, libertà della ricerca e libertà in tutte le esperienze umane. Eccoci qua, voglio salutare e ringraziare tutti, siamo in chiusura, Andrea Piana e Claudio Schiattone della squadra di Si Può Fare, ma in sede a Milano quest'oggi Lorenzo Nespoli, Pietro Lacorte, invece qua in Expo Carmelo Rolicella in regia e Riccardo Poli in assistenza in diretta. Ci sentiamo sabato prossimo e ricordiamo tutti che non andiamo avanti fino alle 11 ma finiamo alle 10, perché abbiamo fatto un cambio di palinsesto due stagioni finendo alle 11, adesso invece finiamo alle 10. Lo avvisiamo perché ci scrivono tutti, ma come, non finite alle 11? Grandi abbracci.